lui non sento più nessuno. Luca, lo senti? Però no. Io ho trovato la televisione, no? Attenzione Antonello, se copi sassa, ricambio. Non voglio anche temporale perché ho dei picchi di coso là che sale dall'acqua, sale di colpo come quando c'è temporale. Qua ne è prevista un po' di acqua comunque. Per la quale? Per non sento triple. Domani comunque, domani pomeriggio è previsto temporale. Il tempo non si recupera, anche se ho sentito le previsioni a lungo termine, dice che fa un luglio allucinante, caldo, brutto, tutto agosto sino a, intorno al 20, bello, poi qualche una settimana così bruttino e poi inizia il caldo. Ah, Roma con un fuminato. Amico che vai a un pezzo di terra, non ti conviene coltivarti un po' di tabacco e ti rivai due sigarette di Natale. Tanto la macchina di carattere. Ma non è roba, diciamo, penso non si possa coltivare, però non è come ti coltiva la marijuana, no? Dico canapa o cosa del genere. Qua è coltivato tabacco, forse è soggetto a monopolio, però non penso che ti pongano in galera ma una cosa del genere. In galera si mettono dei monopoli di sangue, non è di più. Non lo avrebbero coltivato. E tu gli dici che uso personale, non hai soldi per comprare le sigarette e te lo consumi per fumartelo, cioè lo produci per fumartelo. No, lo puoi fare. Ti fai una serra dentro casa, da produttore al consumatore. Se fate sigari, a per le sigarette, se fate sigari, non fate più parte. Ma se proviamo a richiamare Antonello, attenta Antonello se copi Sassari, avanti. Boh, forse è lui che sta parlando, ma lo sento piccolino, piccolino. Antonello, sei tu, avanti. Boh, Antonello, se sei tu non riesco a capire quello che stai dicendo. E mi sa che l'antenna che Antonello non ha una grande resa, perché mi arrivava molto più furti rispetto a lui andando nella stessa direzione. Signore, mi sa che mi guardo un pezzo di televisione, dai. Vi saluto, ciao Luca, se sei ancora all'ascolto, Natalino, Antonio, Pierpaolo, Claudio e compagnia cantante. Ciao, correte da parte mia. Ciao Roberto, ciao, ti risentiamo al cugino, ciao, buona. Ciao Roberto, ciao Pierpaolo. Devo fare anche, devo telefonare piazza dei famosi, capito? Così dimagrisco un po' sopravvivenza. Cosa? Il tosco famoso? No, no. Anche quest'anno c'è i famosi contro non famosi. Io non sono famoso, quindi posso andare. Ma comunque, guarda, lasciamo stare la scuola, che forse deve ascoltare. Però ma anche il rischio di te. Già il famoso non è facile andare, c'è una selezione particolare. Ti viso un bel di no. Oh, non ci credi, ti posso vedere la domanda, mi hanno anche risposto, ma sono in lista per la Sardegna. Adesso vediamo, dalla Sardegna ce n'è già un altro, perché è andato via quello di Altieri e quindi ce n'è già un altro. Perciò quando tocca a me mi chiamano. Non mi interessa, solo che io mi guardo un microfono per far vedere, un danno più tre, me lo pongo in altra banca. Allora, quando devo parlare con il dottore io schiaccio la portante, e cos'è la scusa? Avanti, Becchi. nulla Gio. Va bene, più 5, più 4, 3, più 3, 4. radio è eccezionale perché accetta tutti i microfoni con una modulazione allucinante. Bella, bella, bella. No, è più 4. Appena più di Tony Angutti c'è sull'altro perché c'ha le affari che regola il Tony, però questa è ancora più bella. No, questa è più 4, è modificato questo. Va bene, vedi che il mio non è modificato, sto andando lo stesso col Superstar e va bene, io ho stare più 3, l'ho provato e Luca mi ha detto che è più bello il più 4. Ma trovare un po' tutte e tre in fila, non bisogna trattarlo, un barone, una volta barone, tocca trattarlo. Solo come timbri che se uno ci sta attento, se no sono tutte e tre simili, tutte e tre simili, vanno bene tutte e tre Pierpa, quindi io se attacco il più tre te ne accorgi, perché questo è più, c'ha tonalità più acuta. Sì, quello che è vero. E la terra tu, com'è questo? Certo. e basta. Questo invece grigio originale americano non ha prezzo, quindi me lo tengo. Però c'è un microfono più professionale, una capsula ceramica, di sua la capsula dinamica. Questo è la compressione. quello in banda laterale da 200 watt, in AM ne dà una trentina, 30-40, perché non è fatto per la M, capito? Un apparato decametrico, non è a sintonia continua. Decametrico vuol dire a sbalzi, cioè i 10 metri, i 20 metri, i 40 metri, gli 80 metri e i 160 metri. È a sbalzi, c'ha solo le frequenze che servono amatoriali, quelli si chiamano apparati decametrici. Mentre invece quello, l'altro che c'ho, quella è sintonia continua, da 0 a 30 mega, quindi quello fa tutto. Questo fa solo le bande amatoriali, però nei 10 metri c'è inclusa anche la 27. Lo usavo sino all'anno scorso con il cavallo da letto, poi l'ho tolto e me l'ho messo, per bellezza l'ho messo gli altri lati, e qui ho messo il baracchino. Già va bene, è l'altro, sono molto, credo che devi stare attento con le bande, perché basta poco e si crepa, no? Io vedo, segno che è fatto l'imperfatto, ma non per negligenza, perché magari ti metti a modulare quando pensi che tutto va bene, il preaccordo non è fatto bene, quindi sei appena appena fuori accordo e quindi salta la valvola, è tutta, anche i finali a valvola, però le valvole costano 6 euro di questa radio, i finali costano 250 euro. Anche la valvola a valvola, il originale e l'originale, non sono capo di tutto, tanto un attimo. Valvole? No, ne ha 6, di valvole. Sono due in trasmissione, due in ricezione, due per il preaccordo. Capito? Due per il preaccordo, due per l'accordo, quindi per la potenza, e due per la ricezione. È tutto valvolare, anche come ricevitore valvolare. Ma ho cercato a fusare le cose, queste CJBC, e sono valvole fini fini che costano una cazzata, però non è sempre che le trovi, capito? Quindi devi stare attento. Sì, 58, perché purtroppo è troppo forte il ricordo, la modulazione. E quindi devo cercare di girare per poter riuscire. Purtroppo ho fatto anche io parlare. Va bene, 2 secondi di bianco, datemi che devo andare a fumare qua, non posso fumare. Ragazza, io alla ponta, non ti sarà. Ecco che io al 48 per il tornado non lo do. Appagato. Chi è che ti ha utilizzato? No, oh, c'era uno che lo voleva. Ma capire, l'altro sei girato. Rimane qua, non me ne dà fastidio a me. Ma, tu sono apparecchi che fanno bene. Ma poi tu con l'M300, il microfono lì. Da usare che si è accattato. Ciao, so, infatti questo non lo dà nessuno. Non lo dà nessuno, perché sono appariti, però dico che ci chiamano tutti, soprattutto il microfono, che sono unici. Figo, ferma! Ragazza. Claudio, che fai, Claudio? Sei andato a fumare. A pippare. A pippare. Brava, è Pierpaolo dov'è? Dimmi. Aspetta, prendi i piedi, Pierpa. Vai, quello preferito, vai. Franco, ho arrivato tramite Walter un carabiniere di quelli che guida la moto, di stivali, di quelli che hanno la cancia laterale. Beh, da vedi, sì, li vedi. Minimo se ci vai costano per la moto. Minimo costano 250 euro. Ma belli neri, Nuovi. E fai 250 euro. Come costano per pa questi vari, non quelli a motociclista e carabinieri. Nuovi, quelli che hanno gli agganci laterali. E davanti c'hanno il coso proprio per le marce. Ah boh, io non ho idea quanto costa, eh. Non ho proprio un'idea. E d'accordo, da Ceni, via l'Italia, e chiedi quanto costano. Quello che vende la roba militare, ma sono veloce, io sto scherzando. È tornato l'altro giorno ancora in divisa, infatti mi ha citofonato, ma tu c'è che devo dare roba, e tu gli hai regalato. Poi ci ho pensato, non stavo scendendo, no, è così qua. Venuto, 41, numero mio. Qui stiamo andando al motoraduno, mi infilo il pantalone della tuta che ce l'ho, sempre nero. E mi sacco gli stivali, vamos! Gappa, gappa, già va bene! Ci vogliono, Aci, ma uno da va, due volte ti puoi far male con quella moto, ma ci vanno già quelli. Io scarpe da attivi, con la moto va bene. A meno che non vai subito da uno, perché se chiedo tu che c'è freddo, allora sì. Una moto a marcia ci vuole botti senza lacci. No, tu non hai marce. Una moto a marcia ci vogliono scarpe senza lacci. Io ce le ho le scarpe fatte apposta. Ma quelli di fare è un'altra cosa. Ma gappa. E costano sulle 280 300 euro quelli si fanno. Adesso chiedo a vedere. Qualche regalo lo devo fare per forza. E poi mi ha portato il pantalone, quello... pantalone, non è pantalone, è l'incerata, quella che usano loro, il pantalone dell'incerata. Gappa, gappa, che colore è? Blu? No, nero è. Gappa, ma quella da mettere dentro gli stivali? No, pantalone blu, più quello che c'ha poi giù, c'ha la cerniera. Si entra assieme agli stivali, poi c'è la cerniera e si chiude. E rimane chiuso, attaccato agli stivali, non si vedono gli agganci agli stivali. Tutto per motociclisti. E quelli che utilizzano loro? E per quando magari piove, per quando ho capito. Gappa, gappa. È bello, eh. Almeno c'ho tutto il completo adesso. Se giù botto me l'aveva dato un'altra persona. Poi vabbè, c'ho anche il mio, quello nero che è più giù in garage. E so che a posto, arrivito. Voi giù poti cosa la medicina? Maledizione. Questo gli hanno tutto il vestiario nuovo, allora me l'ha dato. Va bene, dai, facciamo girare. Luca! Dario! Tu hai bisogno della televisione? Sì, già. Dimmi Piscola! Ah, senti che è femmina. Papa gappa. Sono intelligenti, cane. Ci sono cani che sono più intelligenti delle persone anche. Non tutto così, No, cava cava. Oggi c'è crepato il furgone, tu. Davvero? Pagappa, è arrivato lì alla VTV, da la VTV, a Platamona, tre cabacche, motore crepato. Fumo, ha cominciato a picciare olio dalla cinghia di distribuzione e poi ha cominciato a lampeggiare la spia e l'ho fermato. Poi l'ha preso il figlio del titolare, stava risalendo, buh, inciugato. Lì sicuramente sono partite prima di tutto le bronzine perché è rimasto sensurio e molto probabilmente anche qualche persona, qualche pistone crepato c'è, perché fa un rumore, sembra una campana dentro il motore. Capito, quindi succede quello e altro. Però non sono accorto di stare a tutti. Ma secondo come si spaccia che si può insultare il cuore con furgone? La moglie del tassista, quel furgone che abbiamo noi. Galizia, è certa. Sì, ma poi usate tutti sì, però visto. Allora, le mountain del motore, cambiare l'olio, il filtro, tutto quanto, si vuole. Ma non te non ne hanno mai fatto, qualche volta così, ma raramente, capito? Con quel furgone per stare attento quando viaggi, era la Maddalena oggi, ma una mano mi si è bloccato via la Maddalena. Sono due sono. Senti, mi assenti nella vita. Io non me ne ho creato, perché il motore costa per farlo, e costa un bel. Scappando in cambio d'olio, mettere il filtro e cosa costa molto, molto di meno. Cioè, fa una puntata, cioè, si rimettono in un motore, io fammi le cose di spesa. No, praticamente questo furgone era già da un mese fa che stava perdendo olio. E gli ho detto, guarda, quello del furgone sta perdendo olio. E vabbè, l'abbiamo portato in officina. Il cavallac, ok, a posto, va bene. Mica oggi ha cominciato di nuovo a perdere olio, l'ho portato riparato. E praticamente ci ha mangiato. Allora, io ne ho messo 4 kg lì a portafoto di olio, perché l'ho visto che stava lampeggiando e gli ho messo l'olio, lo stava perdendo. Poi praticamente tra la favola arrivo lì alla qui di Corro di Castelsardo, passato Castelsardo prima del 2018, mi ho messo un'altra 4 kg. Sono arrivato lì a Platamona, torno a Censuria e l'ho fermato lì, no. Poi è arrivato il figlio del titolare, tre caballacchi e ne ha buttato dentro un'altra 4 kg. L'ha messa in moto, si è buttata a camminare, poi ha fatto danno. 4 kg olio, ti posso dire che è arrivata a Graziella e non ce n'era più. Allora me l'avrei presa con l'uomo, perché un furgone l'ho provato a giustare, perché non l'ho fatto riparato? Io me l'ho incavolato un po', perché io sono diventato loro a incavolare, perché il furgone infatti deve viaggiare tutto il giorno, deve essere efficiente. Ma quindi praticamente sono furgoni che fanno, posso dire, dai 200 ai 300 km al giorno, Non si vuole più, si dice che gliel'ha portato ad aiutare, non l'hanno aiutato a te, io me l'ho aiutato con loro, perché il furgone deve essere efficiente, deve essere a posto. Però purtroppo è così. Purtroppo questi furgoni con tutti i soldi che abbiamo spendendo al meccanico ci sarebbero usciti nuovi, capito? Girando, capito? Come la moglie del tassista, loro girano così. A fare detti, però, ricordate, la macchina mia va bene, io la macchina mia gli faccio tutte le manutenzioni, cinghia, cambio d'olio, tutto quello che la fai, tu. Praticamente, questi furgoni invece tu li prendi, non sai se esci e se ritorni, capito? Poi c'era un incidente lì sulla appena più giù di Graziella, doveva essere qualche incidente grave, perché c'era la strada tutta bloccata, hanno chiuso addirittura il traffico, sia a salire che a scendere, tutto bloccato. Sì, ho sentito che si sente qualcosa, ma non so che cosa, però, senti, l'ho sentito anch'io, sai, per ragione qua. Ma hanno detto che è successo praticamente un incidente molto grave lì, praticamente ha pochi catara al discesone di Graziella, dove fa proprio il discesone, no, fa il discesone, poi fa la setta e poi fa di nuovo la discesa, prima di arrivare al ferrovecchio, la fascia a carrozze, lì c'era un incidente grave, quindi hanno chiuso tutto, hanno chiuso il traffico, là. Sia in salita che in discesa. Come avevo leggere nel giornale che ho fatto scelto, un altro che tutto di una, qui c'è sempre da fare macchine a niente. Ci vuole molta attenzione, molta prudenza con la macchina tu. Purtroppo ci sono delle persone che non guardano niente, capito? Ah, oddio, un paio di anni fa non l'hanno fatto volare dalla moto. L'hanno fatto molto male. Molto male, non ci mettevo, molto male che l'hanno fatta. La colpa era di quella della macchina. La colpa era di questa ragazza che stava scendendo giù a Platamona, praticamente era distratta, non so come è successo, lui stava scendendo la stessa strada, perché stava andando in campagna a sistemare lì, e questa gli è andata addosso. Non stanno mai attenti a questa gente, la gente qua sempre a fare i tempi che sta in usi. Adesso un centro abitato lì come può essere San Giovanni lì, quando però stava e cosa, ma lì c'è un centro abitato e solo vedi certa gente cacciare a manetta. Allora cammini un po'. Ma dove sono fermata? Lì alla WD, quella rotonda della WD, un po' di persone ci hanno rimesso la pelle. Sì, la risposta, perché stanno a parità. A tutti piace correre, però quando non si può, c'è pazienza. La piano uno, avrà fatto una carità. Che ha bloccato per durare in presa, se non devo durare tutto da sapere, per bloccare la moto, a lui non so come la ragione la gente, sì c'è poco per camminare, cammini e basta, però devi andare anche piano, no? Non bisogna camminare tanto, anche la tua non è venuta, anche tu, siccome ti sei a me, se non vuoi bene, perché quello che volevo dire, anche se non mi ha continuato che arrivi qui due ore in prima, due ore da due. E comunque, tornando al discorso, tu c'è molta gente distratta con questi cellulari, tu li vedi viaggiando col cellulare attaccato all'orecchio. Allora, io un bruttissimo vizio, capo, adesso hanno inventato i cosi, si chiama Luca Forte, hanno inventato la regolare, hanno inventato un sacco di cose, cioè, non da quelle, cioè, ma non è lui che ne fa niente, cioè, eravamo a queste cose, no, li vedi tutti con il capo che deve dire con io attaccato alla rete, ma tu non comprende nulla, cioè, è sicuro. Per carità, vediamo un po' se è rientrato Luca, ok, Claudio. Davanti un po' stasera. Ok. Come è andata la portantiglia che stava arrivando a notte? Sotto il 10. Sotto di me. E buon tu nostro. C'è un po' di preparazione, non abbiamo il tempo. Comunque, ti sta arrivando bene a tu lì. Gaba, già va bene allora. Sì, sto utilizzando le 300 a tu. Sì, questa è la ragione. Ah, già va bene, questa la piscina da già. A Puglia. C'è una buona antenna, una buona verticale, ci sono già per tutto. E la se ne frega di andare forte. A te butta di un fatto già. Già va bene così. Ma questo è l'apparecchio che ho utilizzato per macchina, il tornado. Ecco, me l'ho staccato e me lo sto usando a casa. Ma aiuto chi stava per ho fatto una chiacchierata. Cava cava. Pier Paolo. Ma cosa stai combinando? Oh, non poi non li dai cinesi. 2 euro. Pulito con l'arco e poi gli ho passato la gomma. Cava cava, anda a vedere. Avevo uno più qua, praticamente non funzionava, l'ho pulito 1000 volte. Poi c'è una data e ne ho comprato uno di quelli universali. Mi pare 45 euro, compralo subito. ancora subito. Se ne vai già, lui, per carità. Io ho 1000 MB più 5, l'M300 e basta, un altro microfono normale. Io ho sempre avuto il terapeuta, c'ho il più 3, il più 4 e il più 5. Va bene così come i microfoni, dai, di poco prezzo, ma 105 euro mi sembra esagerato, 8 ne più 3. Prezzo suo è 80 euro, massimo 90. La gappa, il definitivo sì. Ma Luca non è rientrato, io sono uscito intanto a portare il cucciuccio. Riprendi Anto, dai. Ciao, tre biglietti alla discoteca, di voi, ti servo. Quale discoteca? Estasi. Che male, Gio. Di voi? Cappa di Rogero, di dove l'aria? Ora, io te la metto sabato mattina, te li do, dai. Ne ho tre. Ingresso gratuito e tutto, da bere e tutto quanto, tocco. Rega, ti mandiamo i bizzini a Baddà. Fabrizio Frisi, Rubi da Scena, Igino Coni e Luciano Razzo. Ma tu lo conosci quello dell'Estasi? Ma ce l'ho pure io, lo conosco. Tu magari mi piace andare a lavorare lì, lì al bar di quella discoteca. C'è andata qualche volta a fare qualche extra. Aspetta, perché non me l'ha detto, c'è Rugi. Fra, mi sono dimenticato, se ti capita. Glielo dici. Ma gli ha dati lui i biglietti, no? Ma sto tre. Se l'avrei saputo te l'avrei detto. Devo chiamare stasera poi. Cazzo vedi i bici di sotto? Ha sbucato la macchina di hanno tre voci. Alla visita ci portiamo un terzo. Cazzo ci stanno uccidendo con queste macchine. Uccidendo. Allora domani mattina ma te lo comando a vedere cosa succede nei nuovi. Oh, ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno. Cazzo stanno facendo man bassa. Attenzione perché la sacri sto piano in telecamera. Infatti andrei a giugare della macchina. E San Pietro, quelle zone lì è tutto piano lì, tutto sotto telecamera. Cosa vuoi dire, fra? Fa un po', mi compare c'è una gru in bravo e la lascio imbragata in alto la facciata della macchina. E una solo posso tenere dentro e l'altra devo tenerla fuori. Cappa, cappa. Vabbè, questi biglietti che deve, quindi di voi te la metto da parte. Sì, ma ci vediamo sabato. E io, vabbè, dai, te la metto da parte qua. Ce ne sono tre. Poi, se ci deve andare, va tranquillamente. Poi di Rogero, riprendi Pedro, che sono qua, un secondo solo, che ci corri con la bambina. Ma domani lo riporti indietro, Claudio? Allora, portato oggi perché domani mattina faccio lavare e tagliare le unghie. Domani sciampo, sciampi. Ti ho preso appuntamento. Ah, va bene, vediamo un po' se Pedro è entrato. Faccio io sempre qua, sto partendo e sono sempre a casa. Ah, vero. Non vedo. E quindi c'è adesso c'è la Maddalena? Mattina era la Maddalena, Pierpa. E mi si è sbarrato il furgone, meno male che ci ha rotto qua a Sassari. Adesso lì c'è un po' di lavoro, lo vedo, il giro. Sì, se puttate chi paga, che vogliamo dire di noi paghetti? C'è Marco, vabbè, ma chi si chiama in giuro comunque? Marco le dice, carissimo, però carissimo senza dinero. E come lo sai lì? Carissimo, di dinero. No, ma che? Ma giù, figliati. Non me la fai lavorare, ma sempre io vieni a lupo comunque. Comunque c'è una moneta accesa qua, ci sono 200 persone che stanno ascoltando. E c'è il monitor acceso, ci sono più di 200 persone che stanno ascoltando. Sì, vabbè, lascia ascoltare, non è mai qua. Gava, gava. Cosa stai ascoltando, vedi, che ha acceso la spia adesso. Rogarie. Rogarie, venite qua, dopo. Per fare il centro mito. Sì, è per fare. Attento un attarino. Attarina andata a nana. Tu male, sto scendendo a prendere il cigarette e poi non ci ho sentito più. No, io. più vestiti che altro. È tutto a spendere, a spendere, a spendere, basta. Capito mi hai? Tutto a spendere. Tutto venduto, tutto venduto. Dov'è, dov'è? Boh, adesso ci pagherà minimo il 14 o il 15. Boh, da noi ancora no. Non si intende manco doppiare così di là. La risoluzione mi pare che è in poche mani. No, questo qua si sta pagando il 15 qua. E noi, la prima settimana, poi di solito arrivano sempre, la prima settimana fanno i mandati, poi fanno gli accrediti in banca. E ecco, angelo di Grindate e Beto Bulunetti. E già arrivano. A me ancora non mi è arrivato l'accesso, sto aspettando con l'assegno. Ho chiamato Roma e Roma mi ha detto, dice che l'hanno già spedito, boh, e no che non è arrivato nulla. Assegno del sinistro? Certo, 1280 euro qua. Grazie Rampi. Grazie di Rampo. Ci dicono noi che ti rampino. A me li chiullo tutti. Ma che? Vero. Che palle. Manco voglio parlare, c'ho meno. C'ho quel sacco molto, tutta la via andente, tutta la via andente. Tu figurati, sono uscito alla Maddalena oggi, ho fatto due chiamate alla Maddalena, sono arrivato a mezzogiorno e mezza, mi ho dato una mossa alle 3:10, 3:15 stavo di nuovo in barcata. E poi ti hai fatto gli altri? No, e poi mi sei facciato lo Burgova. Cioè, se stesso, quale c'avevi, quello blu? E quello blu stava perdendo Ulio, l'ho chiamato, guarda così e così. Mando caratrici, l'ho detto, lo fermo qua, cartacciardo. No, forse la caratrici, falla andare, poi un altro po' cuduto e falla andare piano piano, sì. Sto caratrici, allora ci ho mangiato, ho messo 4 kg d'olio lì a Porto Posto, perché da Porto Posto ha cominciato a perdere olio. E tra caballacche 4 kg di olio. Poi ci sono arrivato lì a... come si chiama? Alla qui che c'è vicino a nel sorso. Trac, senza olio di nuovo, un altro 4 kg, via. Le cavallacche arriva lì con c'è quattro mona, allora senza tutto, come da fare rumore, pure c'è ciudato. E avrai fuso le brondine, sicuramente. Brondine, guardia il rumore. Ah, io sai che fai del rumore sempre. Sì, avevo cambiato l'albero, quello. No, il meccanico amico suo gliel'ha fatto. Perde il valore gliel'ha portato, dopo una settimana mi risultava. Sì, se non c'è un po' di brasile in banco lì, ha messo nuovo, biella e tutto. Avrà sempre avere problemi, insomma. Sì, poi tu gli sei a trattare. Certo, ci avete chiesto di comprare furgoni nuovi, claro, perché i furgoni quelli lì fanno schifo. Sì, va bene, Cioè Pino c'ha tutti i mesi nuovi, cazzo, voi, tutti che si montano in garraggio, Ah, vero. Mi sono comparato una carriera, un bacione, stavo rientrando alla Porta Torres. Praticamente ci hanno passato in quel campo degli zingari. Gli zingari ne hanno meglio dei nostri. E non lo dico a Faura? No, la realtà, non è lo sto dicendo la realtà, la cosa giusta. Perché in definitiva ci hanno furgoni veramente meglio dei nostri. Fare. Loro devono incassare, ma deve sempre incassare, pensare anche che c'hai dei mezzi, che c'hai delle persone pure, tutte queste cose qua. Non puoi incassare ogni giorno 500, qualche volta devi contattare di incassarne 100. Un problema del lavoro è una cosa, il problema della sicurezza sulla strada è un altro. Perché se io devo andare a fare un intervento alla Maddalena e so che devo andare e tornare, non è che devo andare, non devo durare che si faccia il furgone, i mezzi vogliono nuove perché fate un sacco di chilometri. Ma infatti, e lui non la vuole capire questo. Io ripeto, mi si è fermato qua a Sassari e ho trovato per fortuna Salvini, un altro strappo, stava facendo anche lui a Sassari. E mi ha dato uno strappo. E se noi era rimasto in chivo, avevo fatto tanto per venire a sala, il furgone era rimasto in chivo. Se invece era fermata la Maddalena, avremmo lasciato la Maddalena. Avrei preso il traghetto, a Palauli, avevo chiamato lo Daci, qui in cassata, avevo fatto un conto, che pura è della piazza? Motore fuso c'è quel furgone, è sottile. L'ha portato in officina la settimana scorsa perché c'era una pietra di Giulio. E perdeva proprio di prima, si ha mangiato 12 kg tutto da porto a porto a strada. E adesso si mette una mano alla coscienza, si compra un motore nuovo, se no rubiglia il rampo, c'è quello che fa. Se la vuole aggiustare lo aggiusta, se no se lo compra nuovo, a me non me la butti nulla. La macchina mia non è buona quando a travagliare, finito. Se no si arruina di tutto lassù. Ma ce la faccio, ma lo sai, la del mio mezzo a lavorare, ma non ti nanni. Ma hai capito che ho ritirato il libretto, ma me ne vado in moto a lavorare, cioè mi dica, prendi la macchina e devi andare lì, sì. No, questo figliano non hanno abitato il libretto, vedi? Poi praticamente lo sai che mi hanno preso il libretto, capito? E infatti zio Franco domani ce ne va in moto a lavorare. Infatti, fai vecchio. Così era accusavone e mi sono avuto la dire l'officina grattandomi le palle. Aspettate, arrivo subito, le prendi in stata lì. Brecche! Brecche! Buonasera! E la buona arma di Daniele in frequenza! Ciao Daniele, buonasera! Salutone a tutti! Ma che fine avevi fatto? Non ti sei fatto più sentire al baracchino, come va? È sparito, vero, fra? No, in Libia! Ciao Giulia, ti è sparito, ciao Daniele! Ciao Cla, buonasera! Dentro l'armadio l'hai messo l'140. Oh, già è qua! Qua è il Poni è qua! Lascia dentro l'armadio che è meglio! Dove c'è Natali? Pagava! Bene, mi ascolti in quelle zone, in quelle coordinate di campagna! Ehi, già ti ascolto bene, sono vicino alle corna! Alle corna? Ehi! Pagappa, vai Claudio! Sì, ehi, lei sta arrivando bene. Ma vai, siamo tutti con il baracchino, Daniele. Il sottorra prende spettacolo. Io vado a fumare, un attimino mi prendo una fumogena, dai, riprendi Cla. Sì, capito me, Daniele. Ehi, Cla, già un po' compreso, qua, grande o piccolo, l'antifono è sempre la stessa. Ma hai provato, a chi sei domanda, quella di fronte? È solo una! Lì bisogna fare qualche altro sistema per quell'antenna, Daniele. È troppo bassa. Su 60 persone solo una c'è. Cazzo, la faccia la scarogna. E io lo stesso, bene. Quando sono arrivato qua ce n'era una, però poi abbiamo scoperto che lei stava usando un preamplificatore, l'antenna. E quindi il segnale era già preamplificato da Monte Oro. In più col preamplificatore la disturbavo. E allora abbiamo sistemato tutto. Però lì è questione di antenna. È troppo messa male con l'antenna lì. Già mi ha trinto la sistema. Oh, anche quel palazzo è così, Micla. È così, è anche. A quanto sei anche mezzo andato. Cos'è Natalia? E può essere anche l'antenna di quella persona là. Non è detto che sia per forza lui di tutta. Ma infatti bisogna verificare, lì bisogna verificare solo facendo delle prove, come abbiamo fatto noi con Franco. Però, sicuramente sottorra allerta, visto che non si baga più nuda, capito? Allora è meglio evitare in questo periodo, poi si vedrà. Ragaba, boh, perché è un caso solo, capito? Sono stati diversi, avrei potuto capire, ma è solamente una, boh. Stavo dicendo, ma stai disturbando lì da te? Ehi, aspetta, adesso c'è anche musica sotto. Ehi, Afra, solamente una persona però. Te l'ho detto, con l'antenna la tua, la via, metterla sul tetto. Scusa, Daniel, ma stai disturbando da quando hai messo quella radio oppure disturbavi anche prima? No, è solo ultimamente, anche quando c'avevo quella lì, là. Anche quando c'avevo quella non disturbavo nessuno, si può dire, solamente ultimamente che sono nati questi problemi, perché in quell'appartamento non c'era nessuno. Adesso è venuta questa qua e sta rompendo le scatole. Ma non devi disturbare, Daniel, perché quella lì, se ti torna a chiamare i controlli, salgono a casa, arrivano col mandato e succede un patatrac. Quindi statene buona, sereno, cerca di prenderla alle buone, vedi un po', verifica, baci con Franco, facciamo un controllo, facciamo delle prove, cioè bisogna fare che cosa? Adesso già sistemiamo, dai, la metto come si deve e poi vediamo se il problema persiste ancora, non lo so. Secondo me il problema è con l'antenna che è messa troppo bassa, capito? Il radiale sta radiando verso basso. Però tu mi segni che il radiale di quell'antenna c'è la massa, è il centrale che irradia fra, è 7 metri che c'antenna a me, ma è possibile che la massa ce l'ha, è bella pure anche perché c'ha le staffe su ringhiera, quindi ammassa bene l'antenna, i radiali sono radiali, ma è il centrale, non è verticale, quindi irradia verticalmente, non sono i radiali no, che mandano nelle onde, i radiali servono per la massa dell'antenna. Servono a niente, per l'accordo e per tutto. Quindi il problema è come avevamo da quella signora qua di fronte, fra, forse che ce l'abbia anche questa signora, siccome non ci abitava, l'impianto è vecchio, magari tutto gli altri a scocci, come ti va via questa signora, bisogna andare a cercare di prendere alle buone. Ci vai con Daniele o ci andiamo assieme, signora, questi sono i tecnici, come abbiamo fatto a Ghida, una valigetta, dobbiamo verificare l'impianto, si controlla. Se Daniele si deve giocare 10 euro per comprare due spinotti nuovi, se li gioca, ma almeno non ha rotto le balle, l'abbiamo fatto noi, fra. Secondo me c'ha problemi lì, quella signora magari c'ha problemi, ci avrà cavi aggiunti, capito? Magari c'ha pure qualche amplificatore dentro casa. Sì, Anto. Capito, Daniele, provaci un attimino a verificare in questa maniera, cioè ci parli tranquillamente, alle buone, te l'ho detto, ci vai con una persona competente e controllate, perché anche a me è successo e poi abbiamo riscontrato che il problema era il suo, non era il mio. Allora, vacla, eia, guarda, ti dico solo che quell'impianto li ha fatti rubagalline. Mamma mia, Gesù di sotto di te. Cava. Carità Gesù Cristo, allora facci tranquillo, Daniele. Compareggia due spinotti nuovi, un maschio, una femmina, un ripartitore, e glielo fai come i cristiani, perché sicuramente quella signora c'ha problemi, e paghi su che rompe il cazzo. Eia, cla, eia, per carità, perché prima non se la mettava nessuno, ma è giunta la ghista, non se ne può più. Ma questa qua dove abita, vicino a casa tua? Eia, all'ultimo piano, e siccome ho visto anche quelle antenne come sono, una girata a destra e l'altra a sinistra, purché orientate verso Monteore, tutti pratichi, sarà anche per quello. E allora lì bisogna salire un sabato, vedere le antenne, salire sul tetto e dire, signora, qua ci deve cambiare le antenne, il problema è suo. Infatti sicuramente è più loro che mio. Poi anch'io mi adeguerò e mi sistemerò di preciso tutto l'impianto mio, come si deve. C'è un tesserino, gli do il tesserino e lo guardi. Lo trovo, signora, devo vedere e verificare l'impianto. C'è un tesserino, ho messo di leva, di boccio di signora, devo controllare se ha pagato le bollette. Se non l'ha pagato, Daniele, ne incessiamo subito. già ne abbiamo tesserino, non ci sono problemi. Faccio quello che c'è gomodo, che ci lascio travagliato nei depuratori, quindi ci lascio di controllare lo gomodo e controllo pure un gomodo. Io faccio qui su mattiata la bomba di Lucas, beata. Se la dicevi ma non si viene a capo. La Nutella. Se non è la norma, l'attacco della bomba la devo attaccare. province. Siamo come te, Ziggy Douglas, siamo della Lega, teniamo duro. Teniamo duro, gamba, è verde, come te, bionico. Ciao, Daniele. Ciao, Pierpa, buonasera. Buonasera, buonasera, bene. Allora, qua siamo. Ma a casa, sì. Gava. Chiama Gava, chiama me. Riprendi fra. Aerea Pierpa, un casino è quando si disturba, è un grande problema. Anch'io qualcosa faccio qua, ma... Casa Luia. La mia comare, ma c'è la mia comare. No, io nulla, c'ho baracchino qua, c'è acceso, attaccato, no. Nulla, niente a nessuno, manco a tutta birra. Sono andato bene, ma no, che centralmente non venne, qua ognuno c'ha la sua antenna sul tetto, quindi per quello che sono andato di luce. Qua, da me c'è un tanto, se mi metto sul 40 disturbo il primo e basta. Ti basta rimanere inuditi? Ma per me è un 40. Io domani mi compareggio un baracchino a un canale, canale 10. Io domani entro dei quarti, va bene. Non ne tolgo anche il frontalino. No, fra, dimmi, va bene, me lo buggio, che c'è, ma lo secondo piano. Apri quello la cosa, se quello è tutto io. Siamo un poco di baracchini, cazzo, e trattiamo un canale giuro. Me lo compareggio a un canale, me lo compareggio, Daniele. Ma è cosa di nafutti. Vacci tranquillo e dille, ascolti signora, io voglio verificare qua perché altrimenti è un bordello. Chiamo il tecnico ed è obbligato a farti controllare l'impianto. Se ci sono problemi dello sistema che abbiamo fatto noi con Franco, ci vado a Vugiara, ci ho sbagliato tutto nuovo, ha messo tutto nuovo Franco, abbiamo provato, tutto ok. Ma non guarda, Claudio, io la conosco, chi sta è Daniele, chi pensa di insieme? Eia, già essa. No, sono dure quelle lì, oltretutto, capisci a me, sono nuovi, e sono già, hanno già un, i parenti hanno già un bel, come dire, un po' di cosette, no? Se capite dove è, no, questa signora mia l'ha conosciuta Franco, di una gentilezza poverina, non me ne voleva neanche dire, ma a me quando mi hanno avvisato, era già qualche settimana, una ventina di giorni che l'ha detto il baffo, siccome vive sola poverina, quindi mi ha fatto pure bene, ma io non voglio toglierle un suo hobby, qui, là, però le capisce che io vivo solo, ho bisogno di guardare la televisione, ma sta scherzando, io la radio la prendo e la tiro a terra, non si preoccupi che risolviamo il problema. E l'abbiamo risolto in mattinata con Franco, infatti è contentissimo, ogni volta mi vede, quando ci vediamo giù nella strada, come sta, come non sta, tutto mi bacia, perché gli ho fatto una grande cosa, capito? Perché quando la gente è educata, e si rispettano le persone, tu fai l'educato, quando la buca comincia a cattare niente tra fottente e maleducata, allora succedono i guai. Vabbè, qua tu sai, in mezzo alla zona minata che sono io, qua ci sono lamentati, si sta dicendo, ah, si sta bene, che funziona, figurati. Mi sei all'ordine del giorno, vittando i vasi te lamenti, come ti vedi a un'intriscia, mamma mia, mamma, io guardando la televisione, senza esserci, quando abitavo a Polottosi ancora con mamma, ma ti seguo per vedere 30 anni fa, 25 un cazzo, sono a Sassari 25 anni, ero ragazzino, 14 anni che c'avevo il baracchino, quindi, come ti vedi a Cacciarriga, vedi, chi c'è il baracchino, vieni a vedere se è baracchino, vieni, accendevo, c'erano 23 canali, mi sono 23 canali non c'era nessuno, quindi cosa era di te? Guarda, ti dico una cosa, un bel po' di anni fa con l'altro smesso, dopo un due anni che non avevo, non c'era manco l'antenna, c'era la stampa dell'antenna, solo la stampa, manco campo c'era. Mi è venuto questa qua che lo stavo disturbando col baracchino. Cazzo gli ho detto, allora la baracchina non è dell'armadio, guarda la buona funzione. Allora manco l'antenna più. E io dice che lo devo fare, ma io con il baracchino, figurati. È talmente la fissazione che c'hanno, non capiscono che sono radio anche ad alto livello, di grande capacità, quindi non devono disturbare. I problemi nascono quando un impianto è vecchio e che quindi può creare dei problemi, come in questo caso sicuramente a Daniele, capito? Sicuramente è così. Beh. Ma io qua ho controllato tutto, ho rifatto le verifiche e faccio questo piccolo, a casa mia, figurati, a casa degli altri no, a casa mia vabbè, faccio la televisione qua vicino, e quindi per quello, e poi c'ho questo problemino con mia comare, però è Lorenzo Cordless, non è un telefono qualsiasi, è un Cordless che può darsi che voi abbia qualche cosa di radiofrequenza che prende da questo 27. E un veleno va presso, ti stai portando Pierpa. E che è la previsione? Televisione, è stata a fare diretta un coso, vai. Senta la centralina, tutti i rumori, meglio della maggior. Moto, macchine, e tutto si sente. E qua, addirittura. No, ma che? Per forza quel microfono, vi credo. Ciao, adesso no però. Prova a schiacciare. Di raffreddamento del coso, dell'alimentatore, forse quello. Sentiamo dei rumori. Qua tu hai sì. Mi si porta appresso dei rumori, ma non so a che cosa siano derivati. Ma che adesso? Ho preso tutto. Adesso no. C'è solo la pentola dell'alimentatore. Adesso non sento niente. Scacchia, sono mi apre con la luppara. La luppara, e allora ci sta pigliando la luppara. Continua a modulare a puttidini. Questa cosa mi fucina la finestra, ragazzi. A puttidini tu modula sempre, tu prendi la doppietta. Così dopo succede una guerra qua. Ma niente. Ehi, acqua. Grazie, te lo dico, Tu hai ragione Franco, continua a modulare, metti l'omologato e toglici tutto da casa, toglici tutto. Portalo da un'altra parte, tutta la roba che non è omologata, metti il baracchino, l'alimentatore, il microfono normale, continua a modulare. Se lei ti chiama adesso il radio, fatti trovare a casa tu e fatti misurare. Fai così, capito? E poi dici, adesso andiamo a misurare con la signora. E lì la porta gliela apre, frutti di che gliela apre allora. No, qua è tutta roba omologata, qua, ho venuta. Allora continua a modulare come ti ha detto Franco, fatti di, capito? Tanto non ti può fare niente, può solo chiamare l'intervento dell'escoradio e basta. Quindi quando viene l'escoradio ti fai controllare, ti fai fare la misurazione, e niente, ti fai fare il verbale di controllo, e te ne sbatti altamente le balle. Poi quando lei le chiama, che loro controllano, a lei rispondono, guarda che abbiamo già controllato il signore, e lei in regola, adesso veniamo a controllare lì. Eia, già sto facendo così infatti. Perché se tu non parli più, le dai adito che sei in torto, invece tu non te ne fare una colpa, se la colpa è la sua, è lei che si deve mettere a posto a te, non te ne futti nulla. Deve continuare a modulare a tutti i siti. Se lei va bene, dici, devo controllare l'impianto, va a controllare. Se lei dice, no, ma qua è così. Vabbè, tu gli dici, allora io continuo a modulare e poi vediamo. Non deve rispondere a niente, non deve andarci per niente. Già glielo manda lei il controllo a tutti i diti, di tanto glielo manda. Quindi, quando ti manda il controllo, tu apri tranquillamente. Non porre resistenza a nulla, ti fai misurare, ti fai controllare tutto, ti fai fare il verbale di controllo e poi sbattiti alle palle. Quando gli torna a chiamare, sono loro a rispondere, tu, il tuo lavoro l'hai fatto. Ah, va, infatti, già non ho problemi. Ma sono voi venuti qua, Daniele, che problemi ci sono, non ne ha problemi. L'ho sempre ascoltato io con l'omologato, sì. Non c'è bisogno di attaccare niente. Non ci lo mantengo. Qui c'è le 9.20 qua col baracchino. Anche noi stiamo usando col baracchino particolare, quindi va bene così. Io sto modulando già da una ventina di giorni con baracchi in più. Oramai mi gioco abituato. Funziona bene e uso questo. C'è forte. Vai fra che vado a fumare io. Dai Mattana qua, forza, passo, passo. Capito Daniele, devi fare come ti ho detto io. Continua a modulare a cotidine. Va bene, rilanciamo il microfono a Pierpaolo. Vai Pierpaolo. Ehi, è quello che ho detto io a Daniele. Se lui deve continuare con un numero cazzo, non c'è far vedere che non modula più. Altrimenti si starà da colpire da solo. Gli ho detto un'altra volta, lui deve prendere. Non ho dato deve. Guardate quello che mi giura, non prendono tutto, perché è tutto a posto. Però facendo così di non modulare, la cosa forse ritorce. Vabbè, chiaramente è così. Sì, sì, allora era vero che era quasi così. Invece che l'altro mese modula tranquillamente. Non gli posso fare niente, tra l'altro, se modula normale. Poi deve continuare a modulare come stava modulando prima, né più né altro, capito? Certamente, modulando, come gli stia dicendo, che c'è un ragione loro, capito? Ma poi si arrabbia, io non lo giovedì, per carità. Ma che quali sono, Pierpa? Li conosci? Avanti, te la dico, ti ricordi quello che aveva l'incendiato dell'esploso per negozio di motozappe e cose in via Mosca, che era saltato in aria parata? Dai. Fratello era quello lì. Oh, di nuovo sono qui. E già, di nuovo. Alla gara, ne penso ormai. Ma a me non mi ha potuto nulla, la buona c'è solo di Borsa, di Borsa Maria e per tutti i miei dica a voi. E per continuare a modulare non me ne ha potuto nulla. Poi le cose sono sistemate. Ho aggiunta con una di quelle sorelle, sono due sorelle sono. Con una di quelle sorelle abbiamo avuto ricetta con l'ambulanza. Via, cappa cappa. Daniele, continua a paventare a puttettini, poi quando dice lei che mi sta disturbando, va bene. Allora, vengo a Caracciolo e controllo l'impianto, vedo se lei c'ha amplificatori. La prima cosa che devi guardare è se lei c'ha amplificatori dentro casa, capito? Allora, e c'è, certo che è mezzo andato, buh. Allora, gli amplificatori sono proibiti dalla legge, non si possono utilizzare nessun tipo di amplificatore. Chiara, infatti, devo andare a controllare l'impianto lì, non so se sono andati, poi, non mi sono più informato. Ma questa quando è tornata, a poco, da un pezzo lì? Sapevo neanche l'esistenza di questa, fra, per dire la verità. Era qualche giorno che la vedo qua, un paio di mesi, un mesetto, e niente, sta scocciando tutto qua, rompi scatole. Comunque Daniele, prima non ne avevi questi casini, adesso c'è anche questo casino qua. Infatti non ce n'erano casini prima. E niente, e adesso è nato questo problema qua. Comunque già si risolve quel problema, non ti preoccupare. Infatti già lo risolviamo, non c'è problema. E poi c'è deve pagare, la signora paga anche, non è che gli devi fare il lavoro gratis, no, tu alla signora. Ma ti credo, cazzo, un lavoro ci fa, non so, per una persona, ma alla fine ci va a aiutare il palazzo. Perché c'è il problema suo, lei paga la signora, se io salgo su, li controllo l'impianto, ci vogliono le antenne, ci vuole il cavo, ci vuole quello, la signora mi paga a me. Infatti, gratis non si fa di nuda. Dico signora, qua ci vuole tutto, ma sta qua e là, lasciamo così. Vabbè, allora dico, Daniele, tu continua a modulare, poti dire. C'è giusta la signora alla fine. Allora, se no la signora, abbiamo che andare ci sangureggia. E se no ci ammazzi, faccia quello che vuole. I cardini, gli avrei mandato via. Penso che è andato via il qua. Da chiudi, roba da chiudi, Aspetta un attimo, Daniele. Ragazza, stavo dicendo, io da quando mi ero stufato che l'abbiamo mandato via. Come senti da quelle parti, Daniele? Cosa Pierpa. Come lo senti da quelle parti? 9.5, 9.10, vabbè, c'ho lo smitter digitale qua, Io di radio, poi intendevo. Ma già vabbè, come radio, vabbè che vi sento tutti strani qua, ho questo cacchio di baracchino che sto usando adesso. Nell'altro già vi sento tutti molto meglio. Andavè, è importante sentirsi là. Cosa c'è anche tu? Guarda, come mi ascolti con questo, Pierpa? Questo è l'Intech 1, 2, 3, 4 e 5 di Santiago 6-8 del radio. Sì, col microfono normale, ti do 4, E infatti grava, grava, andave. Comunque già ti sento bene lo stesso. Ma io guarda, apri il contratto a modulare, te lo sto dicendo, no? Fai male tu se non lo fai, perché finché hai il baracchino monogastro, non ti va che aiuta. Buonasera, parlo agricolo, avete sentito? Maestro, come se la sente stasera? Da parte all'altra! Come ti hanno liberato stasera, Salvatò? Ma la donna non risponde, no? No! Se ti hanno liberato stasera? Mi hanno liberato! E beh, tutto a posto? E tu pure una ragione! Ma che parla agricolo? Agricola, c'è. Barra agricola, buongiorno. Buonasera, dottoressa. Ragazza giamaicana, come va stasera a coro? Si sta male. Perché? Io mi saluto a tutti, dai. Buonanotte, ci sentiamo domani. Ciao, ciao, buonanotte, buon tutto, anche la riascolta alle prossime. Ciao. Ciao. Buon tutto, perdona, dai, ci ascoltiamo alle prossime. Claudio, mica c'è barra agricola. Sono stazione fissa. Allora, che bene. Guardi, parlava a Torino, non sono stati chiusi. La zona Via d'Italia, e tu? Io sono qua, zona veloce, la Budivusi, qua finta. Comunque devi andare a Torino. Brava, e qua tu lo stai arrivando a Santiago di 8-9, una cosa del genere, perché non te lo so dire, è preciso, perché questo è lo smitter digitale, capito? No, guarda di bene, che ti benissimo, è uscito perfetta. Avanti, a tuo. Ragazza, allora, che si dice? C'è anche Salvatore Paragricola, perché ancora? Casa, ogni tanto in giro per lavoro con mamma e niente. Perché ha sbagliato? Per quel rispetto la mia mamma ha fatto fare tutti i giri, va bene che arriva tutti i giri. Ma Salvatore, parla di cosa ti arriva a passo a te? Era la passo, tre la arrivava. Tre? Cazzo, come facevi tutto? Vuol dire che cazzo che sei una buona, vuol dire che sei una buona per te. Ammazza, c'è differenza, eh. Fa passaggio a Paragrino. Un secondo, le prendo subito. Caffè, no, per 20, Radio 5, adesso. Non so, vuol dire che cazzo è una buona per te. Capito, invece l'altro mi arriva molto bene, mi arriva 9, quello da Daniele. Forse sei rivolto verso di lui e più brutto. Lui arriva forte, no, fai tu 9-10, lo dice anche Antonio, Gianni arriva forte, mi trovo sempre bene sempre a Scoglio, come si chiama? Fanculo, come si chiama? Se quello lo dico, non mi viene il nome. A Luca! Luca arriva a 9:30, arriva fortissimo. L'altro. Claudio. Cazzo, Claudio arriva fortissimo qua. Gianni. Anche lui aveva un più forti. Dai, la focca la casa di Antonio. Pierpaolo. No. Carino. Come? Carino. Ehi, era carino già. Sono l'unico che tutto si è fermato, vuol dire che tutta la antenna era tutta trasparente rispetto a lui, perché tutti gli altri erano tutti fuochi. Chiava, no, c'è parecchia differenza, tu non sei molto lontano da noi, ma l'amico arriva fortissimo qua. Salvatore, e dove sei? Al quadrato? Sì, al quadrato. Ora sotto, sì. Dove? Ora sotto, sì. Al quadrato e va bene. Adesso arriva a 4 così, boh, strano. Non so se non c'entra niente, magari gli sposti di 30 metri cazzo c'è un segnale più forte. Il segnale radio sta così, magari se gli sposto un cazzo di 20 metri, l'antenna cazzo magari mi arriva a fanno scavo. Purtroppo, capito? Comunque. Ma come contratto è a testa di segno? No, è in vettura, è vettura, lui sa perché c'ha anche una buona antenna, c'ha la turbo 3001, così è. Basta, sì, la cosa è tutta la differenza, perché per te che stai utilizzando un bifone, non si chiama, noi stiamo usando una verticale, quindi la differenza. E ti sei facendo e poi riporto verso il mare, però già in tutti gli altri, ma io ho arrivato in nausea, capito? Quindi direte che lui e Natalino sono in una posizione proprio zero per la parte mia. Buonasera. Ciao Antonio, certi altri amici, dai. È l'unico Natalino, proprio deve essere proprio nascosto per me. Pure la famiglia è una zona alta, evidentemente è una zona destra. Pure così, capita così. Magari sposto di 2 metri, l'antenna, cazzo, magari la devo fare lo scavo. Dipende, però è l'unico che arriva a basso, ma proprio basso basso. 2, 3, cazzo, se c'è quella nella cosa, ecco. Esatto, esatto. No, vabbè, purtroppo così la famiglia non sente neanche a te. Bisogna considerare che è una verticale, cioè non è una verticale, è una orizzontale, dai. Purtroppo è così, di solo ci sa che non si fa così. E vedi, molte volte quando ho fatto le prove, cazzo, gli ho messo 100 watt, non è che stavo uscendo con 2 watt, gli ho messo 100 watt, a volte ne ascolta uno, a due, se c'è QRM non mi sente, e così la parte mia. Certo, no, lui si sente bene quando è in macchina, la prova che si sente molto bene perché era qua, era a casa, e così si è sentito molto bene, ma l'unica cosa che è, lui si sente bene in macchina, lui, nella zona sua, lui evidentemente è molto negativo per quello che è così. Danni, Natalino la cagata è molto distante. No, non tanto, in linea d'aria no. Il problema di Natalino è che è in zona alta, però è infossata la casa, praticamente c'è una discesa che si scende a casa sua e rimane infossata, rimane sotto il livello della strada, capito? Ma certo, era sul tetto. Sì. Vedi, per dire, tu cazzo alle 9:20, la lui non lo sento, lo sento 1, 2, non ha pensato al QRM 3, non lo sento, per dire differente, voi avete un fosso negativo da parte mia, ma c'è un ostacolo, cazzo, per far sì che qua non arrivi, cazzo, non c'è altra soluzione, perché tutti gli altri arrivano tutti sotto il 9. Poi a me la Tolino arriva a 9:30, 9:35. Vuol dire che aprire la porta per te, stai vicini, magari la parte dove sono io, rispetto alla sua c'è qualche ostacolo, cazzo, per riflettere le onde e non passa, perché tutti arrivano forti, tutti sotto il 9, questo è il problema. Ma dipende a volte anche dall'antenna, l'antenna tua è una direttiva praticamente, è una direzionale, magari quella direzione non va bene, e prende tutte le altre direzioni meglio magari. Eh già, io se è puntata verso il mare, e quindi è di spalle a voi, al monte, con la zona lì di spalle, però se mi arrivi 9:10, 9:20, e tutti si arrivi forti, capito, Claudio non sa fare, Claudio arriva verso 9:30, e quindi, deve essere anche lui, c'è una posizione balorda per la parte mia. Ciao Gianni! Avanti! Ti ho conosciuto? Chi è? Daniele Son. Ui, Daniele, ciao! E allora, Daniele, sto bene? Tutto a posto, oui. Adesso ho attaccato il 68 a far girare anche a lui un po'. Ah, poi esce bene, si sente bene. Come sta arrivando da te con questo microfono di radio? Bene già, bene, benissimo. Ma questo è il diavolo rosso. Cavagava, guarda adesso, se non erro, Fabrizio, come mi ascolti? Qua arrivi benissimo, qua poi ti arrivano a 9:05, nessun problema. E io come ti sto arrivando? Adesso qua che ho lo smitter normale, 6:08. Vedi, anche lui arriva prendono di solo, sempre la parte opposta, anche a te di volte, non è poco. No, bene già va bene. Ma perché non ti faccio un'antenna più grande, Fabio? Ah, se salgo su te talmente l'antenna, anche a te non ci parate più. C'era la nomina di te e abbiamo parlato lo stesso. Ah, si deve essere scherzato, capito. No, non è il massimo, non mi faccio ascoltare. Facciamo quei due punti di luce, cazzo, che erano. Ma scusate così, adesso Daniele mi ascolta 8, e c'è la penna, diciamo così, di schiena rispetto a lui. Vabbè, e riprendi anche tu. Certo, grazie. Da Daniele, se sono intorno a quello, pure io arrivo intorno a lui. niente, non tantissimo. Così che già va bene. Comunque Fabrizio, secondo me anche piccola, te la dovresti mettere una verticale, piccola, ma sincera. E se continui a trattare, di solito fa, però non va come la verticale prende tutto, soprattutto sul tetto. Vabbè, sicuramente. Vabbè, oh, Daniele, quando ti arriva Antonio? Passaggio, Antu! Ora, ora, 2-3, prova. Guarda, qua mi sta arrivando 7 adesso. Quindi arriva di meno di me? Qualcosina in meno di te sta arrivando, Fabri. Nell'altro invece mi arrivava 8. L'altro è più preciso però, Vedi Antonio, che io ti passo a stare a Repubblica di fare zone, c'è un caffè a fare. Capito? Avanti, già. Ehi. Ma il dipolo dove c'è sul tetto, Fabri? Ehi, si è appoggiato sul palo di 2 metri. Ma di quelli a scala, di quelli o di quelli tesi? Come a scala? A scala. No, c'è attaccato al punto a quella lanterna e poi sono 2 bracci che scendono, capito? E sono collegati alla parte del tetto. Un braccio alla parte e una roccia. Ah, steso, come filo a stendere, perché lo puoi mettere al volo, puoi mettere un sacco di muro. Allora, il mio è collegato alla parte sopra 2 metri dal palo, e poi scendono 2 bracci, capito? Una destra e una sinistra, non è orizzontale, capito? Neanche verticale, è tutto verticale. È meglio, tra orizzontale e verticale, è una via di mezzo. Ho capito. A un rovesciato dovrebbe essere. Capito, più o meno. Ma già funge bene, perché qua arrivi bene, chiaro chiaro. Vedi, dipende dalla zona, perché essendo direttivo magari su Mattarino ha un punto balordo, per la parte mia e non c'è più a fare. È come la telefonia, magari c'è il segnale che la fa mostrare, fai 2 passi e cazzo non c'è più segnale. Sì, sì, è così. Con tutti gli apparecchi, anche delle PD per dire, basta che tipo vedi un millimetro non senti più nessuno. Magari lui metti che c'è qualche ostacolo, che non fa passare il segnale per la parte mia e si è fottuto. Ripeto, io quando faccio la prova con lui ho provato, cazzo, che non c'avevo niente di QRM. Ho messo 100 watt e non mi ascoltava mentre QRM, cazzo, quindi non è che... È strano. No, perché qua arriva bene Natalino, Non è che arrivi male, magari è per la zona tua solo, magari tu avendo un'antenna verticale l'ascolteresti 9.20, 9.15, dipende. Sicuramente, perché non essendo direttiva riceve a tutte le parti aggressivamente segnali almeno 9. Anche di più. No, già esce bene Natalino. Anche vabbè, l'antenna sua adesso è un po' capottata, nel senso che ha piazzato un'antenna che era diciamo vecchia, era tutta ripulita, tutto rifatto, ma i radiali storti eccetera. Vabbè, i radiali storti non gli facciamo niente, infatti si è pulita bene, capo nuovo, tutto qui adesso è andato bene, queste piccolette. Infatti. Pier Paolo. Ehi, e mi sono dovuto lasciare a casa stasera perché c'era un Marcolino e non sono uscito per niente, sono un po', mamma mia, un po' rotto di scatole. Se stanotte veniva qualcuno a pescare per essere andato, ma non ho trovato nessuno, insomma sono andato a pescare. Vabbè, come mai la casa è stato tardi? No, c'era gente a casa, c'era quella di fronte e cose, e stavo parlando e mi sono trattenuto anch'io. Quasi 4 watt. Quasi 4 watt. Sì, fatto che bene, quasi fa dai giani. E non l'hai spaccato proprio. Vabbè? Già, quanto sono? Oh, ma che ho coricata, io non mi vedo più bisogno. Dai, l'ultima volta, 1, 2, 3, 2, 3, la pecina fa il caffè. Tu quanto sei di più di 9, 9, 10, così sì. Vai, guarda, la differenza. Ho visto proprio 9 spaccato. Sì, sapevo, qua ti dice ci segnale, cazzo è che ci siamo per differenza. Ho capito che se metti una verticale come quella che ho io, ti dà di... Già ci sono, già, sono sempre qua. Ah, raccontaci qualche cosa. Cosa hai fatto di bello oggi? Nulla, sempre a Domus, non mi sono mosso di un millimetro da qua. Ah, ma... No, io sto maggior parte del tempo a casa. Sì, cazzo, come mai? Cos'è? Non ti piace uscire? Sì, già esco ogni tanto, ma... Adesso sono fermo e ciccia. Caparoccio. Va bene, a quei già sei guccato, no? È normale. Cappa, quello ti sei saltato? No, non dico più di tanto, anche perché sono in figlio. Ma non è quello, tu devi capire che quando uno c'è il diabete si stanca più spesso. Io sono diabetico, per cui la stanchezza mi sovviene. Sei diabetico? Va bene. Quello sta cominciando a fare i segni. Ci ascoltiamo alle prossime se coincide. Ciao Daniele, ci sentiamo, buonanotte. Ciao Daniele, ci sentiamo, buonanotte. Salve bene, avanti a tu. Ciao Daniele, ci sentiamo al prossimo, buonanotte. Non c'è un problema, dai. Ci sentiamo alle prossime, dai. Saluto di circolare a tutti. Ciao Dani. E beh, Luca, non si è sentito già? No, io ho sentito un po' di voi, ma io non c'ero sino a poco fa. L'ho sentito per una stamattina e basta. E vabbè, ma tu ti sei ascoltato. Ma era spento vicino adesso. Ero in cucina, c'avevo gente a casa. Ah, tu lo sai che Gianni è come quello della CIA, mi sono sempre ascolto. Ascolto, e ti chiedo le orecchie lunghe. Io guarda, quando sento che c'è gente, entro sempre, tanto non c'è cosa, non avrei problemi. Ah, non ascolto io, è difficile che ascolti, poi se ascolto un pochettino poi rientro subito, non ci sto solo ascoltando. Vedi chi c'è in frequenza, se c'è qualche persona a cazzo, ma sta male non c'è. No, ma normalmente entro sempre. No, io non ho problemi con nessuno, quindi entro sempre, mi faccio una chiacchierata e poi finito lì. Allora, deve essere così, se la facciamo a beneficiare, capito? Caparoccio, avanti, Giorgio. Ma tu? Ma come scopre che siamo ancora in frequenza, Yui? Cos'è, già? Ma scopre Falcone che siamo ancora in frequenza, guai. Se pure gli facciamo ancora, capisco che è una malattia, io lì, da 30 euro, se gli facciamo un pacco, glielo mandiamo a casa. abita più qua, non abita a Sorso. Ah, si è trasferito la sua sorella? Via, perché è morta la madre e quindi si è preso la sorella. Ah, qui no, non c'è un problema sua. Adesso fratelli, se c'è la ditta lì, c'è l'azienda, no? Penso che la casa ce l'abbiano i fratelli. Anzi no, l'ha venduta, perché l'ha venduta la sorella di questa amico mio. E mi ha detto che c'era timori macchiati quando è andata a casa sua. Allora, tu, c'era di quelle poste che chiusa per dare la strada. No, mascherato, mamma. Cavolo, no, è mascherato. Prova da chiedere a Didi Gazzù, quando si trasferiva da a te, da sotto la sorella che era a fare il malattino, che lo quasi a spese, cazzo. Però le intendinare la sono molto vicina a loro. Cazzo, ma lo faccio qua a spese. Ah, allora c'è l'antenna sul tetto. Guarda, fino a un po' di anni fa c'era sempre, non mi sa che ci sia ancora. C'era su, c'era un metro dal tetto, capito? C'era. La faceva a pezzi, ma allucinata. Ah, quindi non ci sono più lì. No, la casa l'aveva venduta. L'aveva venduta. E penso che la sera ci abbiamo sempre comunque. Perché la sotto ce l'avevamo sempre lì. E poi lo sai dove abita, sì? Sì. In via dove c'era l'ufficio IVA, in fondo. Andando sulla strada di Canica, non mi ricordo che via è, comunque già lo so. No, qua non so. So, no? È facilissimo. Allora tu immaginati salendo dalla marina, passi il primo incrocio, rimane tra il primo incrocio della marina, la spiegata che fai, parti da giù, poi arriva l'altro incrocio che ti porta a sinistra verso il sacco, la fila, roba del genere, a sinistra ti porta le maniure e dritto ti porta a Sorso. Da quell'incrocio arrivare a Sorso, a metà strada, sulla destra c'è un cancello rosso, capito? E poi già si vede il mare, attraverso queste strade così. No, io vabbè. Io passando dai pettini praticamente prendo l'incrocio di Sorso e giro a destra, così. Adesso, tu immaginati, salendo dalla marina di Sorso, tu sia la marina di Sorso, sali per Sorso, quindi arriva prima incrocio, a sinistra ti porta le maniurie, a destra ti porta verso la fila, poi ti ricollega all'incrocio di Rabu di Budi, e dritto vai a Sorso. Dall'incrocio lì, dove c'è Piana, quello che vende all'Opabili, che va bene, sì. Da quell'incrocio lì a Sorso, rimane a metà strada, poi sarà un chilometro e mezzo, un chilometro. Ho capito. Faccio capito. E comunque la sorella, quanto ho sentito. Così. E poi si vede perché rimane proprio la marina, proprio la motostrada rimane il cancello rosso, capito? È facilissimo vederlo. Cioè prima una cosa era rosso, il cancello rosso, poi non c'era la tinta. L'antenna ce l'aveva sempre, capito? Io sono stato così, l'estate scorsa ho buttato l'occhio e l'antenna c'è sempre. Ma probabilmente non li fanno mettere l'apparecchio perché si cazzava un bel, non li facciamo uscire luci di vola. Meglio che cazzare, la fate cazzare, poi c'è questo silenzio totale. Aspetta, Armando, così, se ci si passa a 42. E io ho detto, vai, tu la vedi, C'è un altro di 60 minuti che lo trovo si incazzano veramente a livello di infarto. Ho fatto il sito, mi hanno fatto il sito su internet, ho trovato il sito, c'era lui, era partita dei CB, era tutto quanto pieno di schiuma da barba, mi hanno fatto un gavetto di schiuma da barba allucinante, tutto pieno, Mi hanno fatto la fotografia di profilo per fargli vedere il naso. E la trombone. Amico di Antonio, ma sai che l'amico di Antonio? Di Antonio? Ma mi hai raccontato una volta che mi ha tirato un pista là, che è più tanto. E sale di lì a diarrea. Che scoperato però, cioè, troppo me ne fa quella. Ci hanno messo gli elastici dei pantaloni per non scendere. Bravo. Se lo conosci, ma la chiesa sembrava chissà quanto era cattivo. Invece poi per la testa abbassata, quindi. Abbiamo, però la testa anche una persona che la famiglia e tutti quanti erano persone brave, siamo era lui un po' così e si aggirava, si aggirava un po', ma si aggirava. Lo sai che ci rimasta la famiglia e capita, caso quello magari che nasce un figlio malato, o capita in brave famiglie che magari sono 20 persone, caso nasce un delinquente, succedono queste cose, non è dire perché la figlia è delinquente e tutta la famiglia è delinquente, o succede la cosiddetta piccola era. Ma lui non era così, e lui si incazzava a pazzia, cioè, era la cugina, era già, non faceva male a nessuno, dai. Infatti un giorno, cazzo, il cazzetto da attimo in macchina, gli ha fatto la segna, mi faceva la faccia due risate. Ci mettiamo in letto tutto dietro, ero cazzo a, vedi su, a 2 metri dalla sua antenna. Aveva un iane a 200 watt in macchina, cazzo, dentro l'altro dormite, cazzo mi sei incazzato, sentivo le voci, lui gridava, no, io sentivo le voci sotto in macchina. E c'era tutta la voce, cazzo, una voce impressionante, se no non trovavo anche a gridarlo. Una volta Fabri mi ha detto, doppio numero, da quel bagaglino portatile ti do quello stazione fissa, e io ho detto, vabbè, dai, se mi piace, venga a vederlo. Ma da appuntamento per rubare il letto, malato, già, metto, figlio mio, lo sai che mio figlio non c'ha bisogno di queste cose, i soldi ce li ha, ma se gli dai quel baracchino lì, vale la strada e si ammazza parlando col baracchino, lo metto là sotto. Sicuramente, sarà furia, perché era allucinante, cazzo, davanti la faceva incazzare, lo si metteva con il portale, questo mi metti la portata, magari quando era nel mezzo del giochino, no? Tutta voi incazzava. Perché lui non è che era ghio o cosa, era solo malato, e ogni malato c'è la sua fissazione, ogni fuori di gabbo ha la sua fissazione, c'è quello che ha la fissazione per la religione, va in tutte le chiese la mattina presto, c'è quello che magari si fissa col sesso, capito? E lui era fissato con i maschi, ma con i bambini, non con i maschi, con i bambini, di vedere chi si tenere in tenere. Ma poi io sono sicuro che lui avesse avuto un ragazzo, una vergine lì vicino, non avrebbe fatto niente, mi ci ho con la testa. Allora, Gio stava di Zaimbido in questi cose, non lo faceva funzionare per l'altro, lo faceva funzionare per quello, poi lo trovava a verticare, veniva col dito in bocca con la testa bassa, non parla di ciò. Se tu io quando l'ho conosciuta, ma la fine ho detto che se c'è qualche mania come è cattivo, quando mi hanno fatto conoscere un verticale, perché mi diceva, ma vale, non è questo qui, cazzo, non è una parola, cazzo, ma detto ciao, il signore della ragazza, il residenziale, cazzo, con tutti quanti alle feste, cazzo, tu, cioè, è totalmente diverso. E perché non ha fatto di tutto il differente? Perché qualche coglione glieli dava, no? tua, io come mollavo la portante Piero, cazzo così cazzato. senza la lasciano, ma come è stato un raio metto il capo, fatto un raio che fa, il guagliare va da pedis. Ehi, ma faccio pure incazzare un bel... No, di brutto, proprio ci fanno l'occi di fuori, come diceva lì. E vuoi farci l'occi di fuori? E io non dormo con il telefono, hai capito? Ti rompo tutta la notte il telefono, non ti faccio dormire. A te e a tua madre, hai capito? Solo la macchina pure. Cazzo, qua c'è una portata, cazzo, lui già dava tutti lui, il telefono, lui la ferma di cibi, roba, che tutti li dava, Il mio già non lo so via. Beh, allucinante, ha provato a provare un poverino, ma non era cattivo. Ha una concentrazione difficile da trovare, si sente nella sombra. Guarda che ha fatto l'ospedale dei cibimi, ho letto, lo stiamo nominando tuttora, che dopo che sono passati tanti anni, immagina che se ci è rimasto in mezzo. Ma perché ci mettiamo una grande? All'inizio poi mi faceva un po' di pena, perché c'è gente che esagera, io non l'ho mai preso in giro, la verità. Ma diciamo io, quando l'ho conosciuto non l'ho più preso in giro, capito? Perché ho visto che chi ha provato tutto, perché ho visto che erano veramente una ricassata, che fa un po' l'ansia, poi c'è problemi, capito? Non mi ha fatto niente. Cazzo, però non è allucinante, quando va con le ragazzine, ciao, io mi fa paura. Ascolta, ti posso fare anche un gioco? Sì, che gioco? Il gioco della calzetta. Allora, ti devi togliere le calzette, le calzola, e poi devi toccarti la gamba piano piano. Come sentire il pelo? Ah, ah, che bello, dai, sì, sono ancora. Adesso lo attiriamo, mi stai ascoltando, vedrai che è... Ciao Pierpa, 144, va. Andale, ciao Pierpa, buonanotte, e ci sentiamo le prossime. Ma comunque, c'è una figata, voglio dare, per tu, io sono sicuro che ci fossi lui, cazzo, in frequenza, sono proprio sbrigato. E ma ci sarebbe un bel casino, un bel casino. Comunque a tu, se vuoi andare a trovare un piccolo messale. Allucinante, dove c'hai questi, cosa vuoi incazzare? Sono anche 40 minuti, cazzo, ho commentato, non mi va bene, poveri finali. E non le succedeva nulla. E tu giravi il canale, rigiravi, facevi, parlavi con nuovo, l'altro poi tornavi e trovi ancora lui parlando. L'altro la voce era in breve, 4 o 4, il canale. E io ti ho detto, prima ho detto, stanno perché stanno a mangiare. Va bene, sta bene, eh? E aspetta da Latina, giù mangiando, ho mangiato il primo, il secondo, no, 40 minuti, ho riacceso, va bene Fabrizio, buona cena, aspetta buona cena. Sono 40 minuti, stavo bene. Era allucinante davvero. Ma no, diciamo che ha fatto anche lui la storia della CB l'ha fatta lui perché è diventato un personaggio. Sì, tutta tu, tu pensi aveva un braccio di cazzo a 5 watt, e me l'ha detto che siamo tra la quadretti, l'ha messo di occidente, poi altro, cazzo un'antenna, piazzata, a un metro dal tetto, cazzo un brutto pubblico in basso, la fiera, vedo che un piano, cazzo arrivava da tutte le parti, non c'era gente come rispondeva, cazzo, arrivava a tutte le parti, arrivava lui, Pensavo che io ascoltava a tutte le parti, ascoltava tante cose, andava a tempo lo sentivo. Un giorno, cazzo, l'ho sentito prima di arrivare a Nuoro, un chilometro prima di arrivare a Nuoro mi è arrivato Santiago 5. Non mi arrivava nessuno, e così è impressionante. Lui arrivava a tutte le parti. Che era una zona buona, aveva la zona buona lì, è una bella zona quella. Quando sono preso in macchina, l'ho ascoltato, 5, 6, 7, le persone prese. La cosa impressionante, impressionante, c'è anche lì con direttive, lineare, nulla. Lui aveva una zona buona. Ieri presente che era a terra Francia, l'ho sentito anche lì. Sento anche dalla Francia. Sì, c'è la Francia che era grande, perché io molte volte non ci andavo a trovare gli amici. Lo sentivo, perché ma che era forte. Cazzo, io facevo anche la strada della Iaccio, cazzo, che tutta la costa, arrivava da 9, 9, 10, 9, 8, ma se non te la fa, non la perdevo mai. potevi perdere non lo perdivi, magari quello che ti interessava non arrivava. Ma per dire, cazzo, lui la roba, allora la roba buona, perché poi non è che si parlava francese, bla, nulla, il tuo fratello da piccolo era già succedeva, ti occhiamo, cioè ti occhiamo, ti occhiamo, la cazzo la fa la parte a 6 metri, aveva un metro di palo, ma cazzo aveva uscita con la zona una cosa paurosa, cazzo arrivano le 9, allora tutte le parti, è una cosa impressionante. Perché Vascale zone libere, capitoli si è aperto come zona, non è che siano palazzi e cose. Ma c'è la zona, per esempio, se tu vai verso San Francesco, per esempio arrivare verso la costa, Barisi, Santa Maria, ci arrivi sì, ma così ai basi, o pompando, allora ti sposti verso il basso, ma hai contatto con tre volte, hai legato quattro volte più forte di chiamato lineare, direttiva, roba del genere. Io adesso sono arrivato da qua, senza pompare niente, con 5 watt. Io a volte ci sarei più su, adesso io su un altro, San Francesco eccetera. Allora, cioè ti devo fare in quel punto che c'è quella collinetta e ci arrivi tu più quasi niente. Ma io ci sono per il mare libero da casa, per il mare c'ero libero davanti, allora di Castelsardo, Parisi, tutta la zona di Platamona, c'è quella zona lì, Porto Torre, Salghero. Sto dicendo, dove questa zona era andata, aperta, proprio, la cosa che impressionava, qui mi sento che la gioco del caffè che hai tu, hai spagnoli, yes. Ah, mi chiama lì, la cosa che ho ascolta, ti posso fare? Io con la gamba, cazzo, questo è vero perché ti stavo ascoltando io. Ah. Quindi magari che tu, molti magari capivano il talento, che tu ci sei per il culo, perché non sapevo che veramente era. Ti posso fare un gioco della calzetta allo spagnolo, se io dobbiamo fare il 10. Era poroso, poi c'erano amici miei cagnolesi, quando c'era questa razione, cazzo loro ormai tipo Liguria, tipo Milano, Genova, o verso Venezia, c'erano pochi che lo sentivano, cazzo qua qui, nella sorpresa della cosa del sole, cazzo Falcone dice, tipo ci è arrivato sì, impressionante. Una volta a Fabio Sassari Vecchi gli hanno fatto uno scherzo ai CB, si sono vestiti da fantasmi col lenzuolo e lui doveva passare con quest'altro CB a Sassari Vecchi, o cazzo si sono messi a seguire, dice che toccava i piedi a sedere da quanto stava correndo. Però cazzo, era un buonaccione perché sono sicuro che non c'è, perché anche io non ha mai fatto male a nessuno. Poi era modo di nascondere il microfono, la sua fantasia. Poi sono sicuro all'atto pratico, e gli zittò, che lo dato va a non fa niente, nulla. Cioè, io dico, sarebbe svenuto, cazzo. Gli avrebbe fatto il gioco della carta davanti, chissà cosa avrebbe detto. Ma neanche, come non aveva mai avuto il coraggio di farlo di persona. Fidarsi a me o fidarsi a me? Ah guarda, l'avrebbe detto, non avrebbe fatto un cazzo sempre sulle sue, cioè a dire una parola cazzo era una cosa incredibile, non era totalmente diverso da quella dietro di poco. Sì, quello è vero. Lui lavorava di fantasia, capito? La sua fantasia se lo mangiava, lo coinvolgeva proprio. Allora, è così, così, io come l'ho conosciuto non si è mai permesso di nulla, se vuoi dire, la parola cazzo di lui, come pinta. Una volta mi ha fatto una carognata, io all'inizio pensavo che fosse una persona piena di problemi, che avesse bisogno di aiuto, e col mio spirito di volontariato sono andato a casa sua e gli ho detto, Paolo ci vieni con me a fare un giro. No, mi viene a prendere, mi viene tutto ben vestito, col dito in bocca, con la testa bassa, e dice, io, ciao Paolo, che come l'ho visto, me ne sono accorto subito. E andiamo a farci un giro, tanto mi devo lavare la macchina, allora a Porto Torre, se c'era una Porto Torre, se c'era quel vascone, non so se ti ricordi, prima della cantoniera, sulla destra, c'era quel vascone lì dove lavavano tutte le macchine, era fatto per lavare le macchine, perché c'era la fontana e tutto quanto. Mi stavo lavando la macchina, mi ha fatto più Non si alzare il volume dello schermo, va bene, la staccata buccia tutto il volume. Dopo mi giro e mi vedo lui con gli occhi attaccati al vetro, guardandomi sedere dietro come l'inchinato. E gli ho detto, poi mi non dire niente che sei venuto con me in macchina. Non te lo prometto, arriviamo a Sassa, io se per trovare a chiacchierare c'è in macchina, lui rientra e comincia, e perché sta arrivando poi, sono contento, e ho detto perché, non mi ricordo chi è, e lui perché sono uscito con doppio culo, è già buttato, oh ma che cazzo, ahia. Che cosa ti hai fatto? Ah, Gianni, che cosa ti hai fatto? Ah, vabbè, ma che doveva? Vabbè. Così l'ha fatto il padre, mi ha detto, noi abbiamo un'azienda che lui avrebbe potuto fare i soldi, non abbiamo bisogno di nulla, è tutto grande. Ma cosa gli puoi fare quando è malato, si mette a fare il gioco della calzetta ai clienti? La missione è un'altra strada, la centrale. temporale, casino, un casino. A fare queste cose. Ecco. Ehi, buonasera signori, buonasera. Palmiglio da questa parte, capo. Ehi, Palmiglio, allora, ti rientro. Ciao Arroggio, dov'è? Prova a rientrare. Oggi hai fatto l'ora del pipistrello. Volentieri, vai, oggi detto un po' lunghetto, oggi si è toccato, vai, salutoni anche a Antonio e all'altro amico che mi sa che non avevo mai usato. Negativo. Adesso dobbiamo piantarlo perché siamo cambiato il rapporto, questo dobbiamo rifare tutto il piatto, quindi domanda, no, ma va benissimo, esce benissimo, ma tu l'avevi modificato. Ma l'ho già preso modificato, vuol dire che con... l'ho fatto un tecnico di tuo, l'ho fatto questo. Ah, che pagava. Già vanno bene quegli apparecchi, sono di lusso. E che microfono ci ha messo per me? Questo è un CT, tranquillo. Un CT è normale. Lo conosco anch'io per l'accorgimento, si toglie la retina che c'è. Va bene, dai, riprendi Antonio, ti colpo già barra amico, poco fa ti ho chiamato e non mi ha risposto, vabbè, riprendi, c'è anche Palmiglia, a quello che c'è che rubava la benzina, vabbè, ribezza vigilato, tante volte l'apparenza inganna, lunga lunga, vabbè, Palmiglia. Come mi stai ascoltando a me? Fai se sono con un midrand normale e un microfono amplificato, boh, pagava. Eh sì. Perché quel magno lì amplificati forse non se ne possono attaccare perché innesca. No, penso anche a me, ecco, mi ha tenuto basso. Ciao, ciao Fabio. Maravigli, dove sei? Io vi saluto tutti, me ne stanno a letto anch'io, buonanotte a tutti, ciao Palmiglio, ciao Maravicola e c'è anche Antonio, ciao ciao a tutti, anche gli avventori ascoltori. Sentiamo altri domani, dai.